Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mi copro per far contenti le persone caglienti, io mi copro, mi armo di sciarpettine, giacchettine e quant'altro, mi difendo come posso, insomma. Io sono a favorissimo, viva il condizionatore. Il viaggio per arrivare fino a qua già è massacrante. E quando si arriva ci sono persone che l'aria condizionata non la sopportano, che però continuano imperterrite a venire scollate in ufficio. Mettessero il cappottino. Ho un caldo tremendo, sono vicino a una vetrata e quindi mi entra il caldo dalla strada. Un collega molto più giovane di me, tutte le volte che mi giro mi spegne l'aria. Quanto si sta già litigando nel vostro luogo di lavoro, nel seno benedetto della vostra famiglia, negli autobus, nei treni, anche negli aerei, per il controllo climatico. È un momento molto particolare, quello soprattutto del passaggio repentino e veloce da un clima temperato a un clima torrido. Ormai lo sappiamo, fa parte del luogo comune più calcato da tutti gli umarelli, da tutti gli sfaccendati da giardinetto, da tutte le chiacchiere fatte col tassista, che non ci siano più le mezze stagioni. Quindi si passa da un momento in cui si hanno ancora accesi i riscaldamenti a un momento in cui bisogna accendere il condizionatore. Si passa immediatamente dalla pompa di calore al condizionatore che ci mette in condizioni di sopravvivenza. Calma. Ho già preso posizione, già ho mostrato la mia profonda e, ahimè, insopprimibile natura criofila. Io faccio parte di quella fetta di umanità che ama il condizionamento. Considera un passo avanti nella civilizzazione il fatto che non siamo più condizionati, nel senso che le nostre azioni non sono in qualche maniera inquinate dal clima che ci rallenterebbe ogni funzione fisica e cerebrale. È molto caldo, è esplosa Ade, l'anticiclone africano che ci porta calure infernali, e meno che ci importa. Prendiamo il telecomando in mano e portiamo immediatamente la temperatura del nostro appartamento a quei sani 18 gradi che sono il minimo di sopravvivenza, che poi diventano 16 gradi perché gli impianti delle nostre automobili permettono ancora di scendere fortunatamente in questa temperatura. Naturalmente, dal mio punto di vista criofilo, esiste un opposto e contrario atteggiamento criofobo, che sono le persone che incontro ogni mattina entrando nel mio posto di lavoro, vedo tutte le finestre spalancate. Perché? C'è sempre qualcuno che dice: perché così cambiamo l'aria. Ma non è che cambiamo l'aria, così facciamo entrare l'afa esterna e immediatamente si arriva a delle insopportabili temperature sui 20 gradi. Come si fa a lavorare a 20 gradi? Improvvisamente chiudo tutto, riaccendo il condizionatore, lo riporto a un plafond minimo di 17-18 gradi, esco un attimo, magari adesso in questo momento che sto nel mio studio facendo Melog in una temperatura ambiente appena sopportabile, siamo a 17 circa, già immagino quando riuscirò, Fabrizio Intonti avrà aperto tutte le finestre, spento i condizionatori e mi toccherà soffocare. Beh, questo non avviene soltanto nei luoghi di lavoro, avviene in famiglia c'è sempre normalmente un marito criofilo e una moglie criofoba, perché le donne hanno una minor massa muscolare e quindi sono più esposte alle intemperie del calore, e quindi improvvisamente a loro dà fastidio, all'imperia del condizionatore dà fastidio anche una semplice fluttuazione verso basso la temperatura, e quindi cominciano le guerre. Chi prende il telecomando? Io nascondo il telecomando, anche se soltanto vado a portare via la spazzatura, devo portarmi dietro il telecomando, sennò qualcuno immediatamente alza la temperatura o apre le finestre, torno a casa e trovo un forno, e non è possibile dormire con una temperatura superiore ai 18 gradi. Naturalmente la stessa cosa avviene anche in treno c'è sempre quello che chiama il capotreno, perché oggi naturalmente non si può più condizionare scompartimento per scompartimento in maniera autonoma come sarebbe civile, e dice: qui fa troppo caldo. Quello esegue e riporta una temperatura accettabile, 15-14 gradi, e poi c'è sempre quello che si lamenta, comincia a tossire, si sbatte, si copre con le coperte, si copre con i giornali, deve impietosirci a tutti i costi. In aereo non ne parliamo, in aereo uno appena entra si siede, apre il bocchettone l'aria gelata e naturalmente si fa un bel fascio crio confortante addosso, ma c'è sempre quello vicino, comincia a tossire, si copre con la copertina, chiama l'assistente di volo. Insomma, è iniziata questa guerra. Mi date la vostra testimonianza nella strenua e impossibile battaglia tra criofili e criofobi? 800240024. Siete pronti alla guerra dei condizionatori? Con il primo vero caldo si riaccende l'atroce conflitto estivo tra criofili e criofobi per la conquista del climatizzatore. Il criofilo è colui che nulla vuol negarsi delle moderne tecniche di climatizzazione. È sprezzante ad ogni regola di risparmio energetico, di impatto ambientale, d'energia rinnovabile. Considera un retaggio arcaico il doversi adattare alle mutazioni climatiche. Nella sua politica da crioconservatore è alla continua e disperata ricerca di nuovi ed efficienti dispositivi che possano portare il suo habitat a temperature polari. E ovviamente non sopporta il caldo. Mi sembra impossibile che nessuna delle persone che ascoltano non stia in questo momento immedesimandosi in una di queste due figure chiave. Sono frutto della civilizzazione, frutto della possibilità di avere un controllo sul clima, che mi sembra un grande passo avanti per l'umanità. Soltanto 10 anni fa acquistare un'automobile con l'impianto di aria condizionata veniva considerato un lusso, era un extra, un optional. Provate oggi a salire in macchina senza aria condizionata. I tassisti molte volte ci marciano perché consuma di più con l'aria condizionata, dicono sai guasto, e tengono i finestrini abbassati e dentro è un forno. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Da che parte sta? Condizionatore tutta la vita. Criofilo. Criofilo, assolutamente. È dura la battaglia, vero? È durissima la battaglia. In macchina uno quasi sempre da solo, quindi bene o male ce la fa e se lo gestisce come vuole. Il problema è in ufficio. No, in macchina il peggio è avere vicino una moglie che non conosce dopo 30 anni l'uso dell'impianto di condizionamento, quindi no. C'è un po' d'aria, mette le mani lì e magari, che ne so, accende la radio, abbassa ci i finestrini, prova. Sì, alza ci il cofano, prova. Fa di tutto, lo so. Ci prova, ma in ufficio il problema fondamentale. No, in ufficio sì, perché in un ufficio viene prospettata come attività di mobbing sì. L'uso del condizionamento. Proprio così, guarda, è lo stesso problema che ho io in ufficio, accendi l'aria condizionata, arrivano, cominciano a tossire, a farmi di tutti i colori, e dicono che stanno male, che gli dà fastidio, è una convivenza. Sì, sempre questa cosa di doverci impietosire con le loro miserrime miserie fisiche, tossiscono, scatarrano, si buttano per terra, si coprono, portano le pellicce, ma non è possibile. Bravissimo, proprio così, è solo che il problema io per esempio ce l'ho in tutto l'anno, non è soltanto d'estate, lo so. Perché è un ufficio molto caldo anche d'inverno e è difficile, vabbè d'inverno non c'è il condizionamento acceso perché lo accendono e lo spengono in base alle stagioni, però almeno d'inverno aprire un attimo per mitigare la temperatura purtroppo si fa sempre molta molta molta fatica. Che è, vediamo di individuare il nemico del criofilo. Io naturalmente non potevo fare a meno di non esprimere la mia posizione, non credo nell'equità e nella assoluta equidistanza delle posizioni quando uno l'abbraccia in maniera così passionale e così virulenta. Io sono radicalmente criofilo, non ho nulla da dire, io amo il ghiaccio, mi piace, considero un elemento conservativo avere temperature molto basse attorno sempre, vivrei soltanto l'inverno, non mi piace il sole, mi piace la penombra, mi piace il freddo. Naturalmente mi trovo di fronte a persone che hanno punti di vista antitetici, cerco a volte di trovare dei punti di conciliazione, ma è sempre molto difficile. Lei Gianfranco potrebbe in qualche maniera allucinare, descrivere il criofobo per eccellenza? Ma sicuramente quello che non riesce ad adattarsi alla temperatura un pelo più mitigata rispetto al forno che si crea magari nell'ufficio. No, ma lo descriva proprio, lei ci avrà davanti, ci faccia capire com'è, uomo, donna, come veste, allora, l'atteggiamento. Può essere uomo, può essere donna, non è una questione di genere, secondo me, è proprio un atteggiamento mentale. Beh, le donne sono più criofobe normalmente. Oddio, per via della muscolatura, perché hanno meno muscoli, può quindi essere, sono meno protette. Può essere, io per esempio probabilmente, non so, mentre faccio le attività in ufficio, sì, uno fa un'attività intellettuale, diciamo, però comunque ci metti un impegno, probabilmente me la prendo di più e quindi ho più caldo, non lo so, loro invece o sono atermiche completamente, le altre persone che evidentemente odiano questa cosa, quindi o sono completamente atermiche o proprio lo fanno di proposito per per rompere le scatole, possiamo dirlo? Sì, perché vedono un momento di felicità e devono interromperlo. Quindi 800240024, io non vorrei monopolizzare con l'ala criofila questa trasmissione, quindi se qualche criofobo vuole dire la sua, può tranquillamente esprimersi finché potrà farlo, perché tra un po' non avrà modo che di boccheggiare, dato che, avendo spento tutti i condizionatori, non potrà resistere altrimenti. Il criofilo gode infinitamente nel decantare le qualità del proprio impianto, persino quando vede persone boccheggiare per strada. Ne ostenta protervole qualità, vantandosi che di notte addirittura gli permette di dover dormire con la copertina. È implacabile ovunque abbia la possibilità di abbassare la temperatura. Gode ancor di più in auto, perché può arrivare anche alla soglia dei 16 gradi, mentre a casa purtroppo non è possibile andare sotto i 18. Quando viaggia su rotaie, è quello che chiede al capotreno di abbassare a manetta l'impianto dello scompartimento, fingendo di non far caso ai suoi compagni di viaggio che si farciscono di fogli di giornale per evitare la colite da tormenta artificiale. A me già da refrigerio il rumore, la sonorizzazione del condizionatore. Questa mattina vorrei che mi raccontaste la maniera che avete per contrastare le persone che non la pensano come voi riguardo al condizionamento del luogo in cui abitate. Può essere casa, può essere ufficio, può essere auto, può essere autobus. Anche nell'autobus accade spesso. Si entra in un autobus pieno di calca. Una puzza orribile, capito? Stanno tutti lì pigiati, capito? L'aria condizionata negli autobus è una grande rarità, soltanto in poche linee di metropolitana privilegiatissime, quelle che vanno sotto i quartieri alti, e soltanto in pochissime linee di autobus c'è questo privilegio. In realtà uno tenta almeno di aprire il finestrino, arranca fra la folla, scavalca le persone, apre una fessurina di finestrino e subito c'è quella seduta, dice no, ma arriva l'aria fredda qui sul collo e poi mi prende un colpo, e quindi esci da un autobus che praticamente sembra una tradotta di persone destinate al macello. Sandro, buongiorno. Sì, buongiorno, come posso dire? Da che parte sta? Sono qui vicino a Padova. Acceso o spento? Acceso o spento? Allora, io sono per 23 gradi, 24 in casa d'estate e 18 d'inverno, cosa ne dice? Cioè niente, no? Non ha condizionatore lei? No, ce l'ho, ma nel caso che diventi proprio una cosa incredibile. 18 d'inverno vuol dire che c'ha riscaldamento spento. Pare che io la mando a chiosa per a rivedere il protocollo. Io capisco, guardi, lo so, ho già ammesso il limite della persona che ama il condizionatore, una persona che mette in secondo piano, ma con grande senso di colpa, lo dico, quelle che sono, bravo. Sì, lo so, l'impatto ambientale è terribile. Di 17 gradi, si rende conto 17 gradi? Beh, che è una favola. Di energia che è? In automobile 16. Addirittura, sì, vabbè, 16. Quello consumerei più benzina. Tutta, col ventilatore a tutta Callara. E sua moglie, o la sua compagna, per curiosità. Il contrario, esattamente, è una lotta continua. Io in questo momento mi sento male perché a casa c'erano le finestre aperte e il condizionatore spento. Io lo so. Criticavo gli americani, nel senso gli statunitensi, perché vedevo le donne che a 40 gradi a New York giravano con le calze, no? Certo. Poi ho capito perché quando entro. Anche io porto la felpa in casa in questi giorni, devo mettere la felpa per forza, sennò. Ma il protocollo di Kyoto se lo ricorda. Lo so, no, ahimè, è come il senso di colpa che ispira un peccatore a leggere i 10 comandamenti, lo so benissimo. Cioè, vede, sono le basi cattoliche che poi purtroppo il senso di colpa non risolve niente. Però la trasgressione dà un grande piacere, quindi giro con la felpa e con la copertina imbottita. E adesso comunque 16... io questi giorni non ho ancora acceso niente. Lei com'è dentro casa, com'è la situazione? No, dentro casa vabbè, io sono facilitato perché ho molto, io sono d'origine toscana, si dice riscontro. Ah, apre le finestrine e fa riscontro, sì. Sì, esatto, per cui, e quindi ancora non ho acceso niente, ho 22-23 gradi. Anche quella del riscontro è una lotta nei tempi arcaici, quella prima sì, fa il riscontro sì. E poi sbattono le finestre, sbattono le porte. Comunque non potrebbe limitarsi a deumidificare. Sì, lo so. Sì, sì. Per portarla a 17 gradi. Sì, si può anche fare, ma vuole mettere la soddisfazione che uno entra in ghiacciaia. Uno può dire altro che la collezione di farfalle di stampe cinesi. Vieni a casa mia, ho 16 però. Gradi. Cioè, c'è la fila dopo fuori, immagino. E sua moglie non ha ancora chiesto il divorzio? No, vabbè, mia moglie lì. È molto santa questa donna. Si conserva. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. L'eco da che parte sta? Io sono dall'altra parte rispetto alla sua. Finalmente noi siamo una trasmissione pluralista. Lei odia il condizionatore. Vediamo non è che lo odio, no, non è che lo odio. Beh, io, però un po' sì. Però No, io se entro in una stanza, se fuori ci sono 35 gradi, se entro già in una stanza che è climatizzata a 30 gradi, 28... Si sente male? No, va bene, però lei parlava di temperature di 16-18 gradi. Beh, io perché devo fare l'eccessivo questa mattina. È impensabile. Cioè, 16 gradi in casa non esiste, 18 però ci si può quasi arrivare. Sì, ma è da pazzi, poi uno esce un attimo per fare una passeggiata e ci rimane secco. Ma perché dovrebbe uscire? Sta tanto bene dentro. No, non è sempre così. E beh, poi io volevo dirle che noi in famiglia, io e mia moglie, siamo proprio il contrario. Oh, ecco, esatto. Oh, questo è un caso raro, me lo illustri, perché di solito normalmente la persona che ama il freddo, cioè il criofilo, è il marito, la moglie è sempre quella che comunque ha le vampe, sente proprio... caldo. Invece esattamente, come mi parli di uno spaccato del vostro ménage antitetico rispetto alla norma, nel controllo del clima? Cioè, in casa intanto non ci sono climatizzatori. In casa non c'è motivo. Ma non perché io mi sono imposto così, è una scelta che abbiamo fatto, anche perché poi... Per non avere occasione di litigare, tra l'altro. Esatto, però in macchina... È dura. È dura, sì, perché io viaggio, sì, anche a me piace entrare, insomma... Se sono fuori 40 gradi, chiaro che se in macchina c'è... Quindi lei è del partito del finestrino aperto, uno spiraglio di finestrino. Finestrino aperto no, però c'è da discutere, qua c'è caldo, abbassa la temperatura, e io invece sto sempre attento a non farlo o a farlo poco, anche perché anche i nostri due figli sono un po' come mia moglie, quindi... Certo, è chiaro, che loro vogliono il freddo, è una generazione giovane... Cosa fai, come fai a stare con questo caldo? Mai non... Quali sono le tecniche, diciamo, per mettere in minoranza e far sentire in colpa la persona che vorrebbe abbassare la temperatura? Lei tossisce, si copre con la giacca, finge improvvisamente dei colpi della strega? No, fortunatamente. No, io dico solo che per me è troppo freddo e insomma e basta. Poi dopo, al limite... Siccome la parte interiore della macchina è un po' più fresca solitamente per via del sistema di climatizzazione, almeno per la nostra, allora... Fa guidare alla moglie lei, e lei va dietro. Esatto, e io sto un po' dietro. Lo so, ci si deve adattare. Certo, capisco il senso di coloro che mi scrivono, è uno schiaffo alla miseria questa trasmissione, ogni tanto. Serve anche cavalcare il paradosso per dimenticare, non mezzare troppo le cose che ci opprimono. 800240024, da che parte state? Quelli che vogliono il telecomando del condizionatore sempre in mano o sul tavolo per abbassare continuamente, da quelli che in realtà vorrebbero aprire le finestre del condizionatore e non sanno che farsene. Roberto. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto, Roberto. Ah, buongiorno a lei. Senta, allora, io dico, sono un ingegnere, lavoro anche con impianti sia di climatizzazione che di riscaldamento. Il punto è questo, ci sono delle incongruenze. Allora, d'estate la gente vuole in casa 17-18 gradi di freddo, chiaramente, perché fa caldo, però d'inverno, quando c'è sole, allora perché non spengono il riscaldamento d'inverno, che abbiamo 18 gradi in casa? No, devono aumentare il riscaldamento e portarlo a 23, 24, 25 gradi. Questa cosa è veramente inspiegabile, perché in effetti quei fantastici 18 gradi che d'estate ci fanno sentire dei signori, anche se rimaniamo sigillati in casa, d'inverno sembra di stare freddo, danno senso di miseria. Sì. Io guardi, le dico una cosa, io ho come tutti penso, io ho discussioni con mia moglie. Certo, questi sono le motivi principali di divorzio. Io tengo in casa, anche per mettere di costo e poi anche per legge tra l'altro, io tengo circa 19 gradi. Io il mio termostato è settato a 19 gradi. D'inverno. Ed estate? Tutta la casa. D'estate non ho condizionatore, d'estate io trovo un sistema di, diciamo così, una microcorrente che si forma in casa. Il riscontrino sarebbe? Prego? Il riscontrino si chiama. Non lo so come lo chiama. Riscontrino. Faccio in maniera di tenere le porte, le finestre aperte, le tapparelle. Vedi, i meridionali, hanno le case fresche, anche d'estate, pur avendo 40 gradi perché fuori. Hanno le persiane, fanno perché la controlla. Hanno le persiane, tengono tutto a posto, fanno... Prendono l'acqua e anice, fanno tante cose. Bravissimo, senza avere mai usato tecnologie... Pomeriggio hanno a letto col pigiama, ci stanno fino alle 4, cioè diciamoli tutti. Che, c'è tutta un'altra cosa, esatto, ma quello che è il punto, io per esempio la discussione è dire a mia moglie, ma questo d'inverno, no? Mi dice, sì, 19 gradi, ma io ho freddo, perché fuori ce ne sono 0 o meno 10, ho detto, ma tesoro, 18, 19 gradi o 20 gradi, che fuori ce ne siano più 40 o meno 40, 20 gradi sono 20 gradi. Certo. Cioè, se io sto in una stanza chiusa a 20 gradi sono 20 gradi. Che poi... Quindi vede però, Roberto, ci abbiamo preso la discussione climatica, il controllo del clima, che sembra quasi un'eresia, sembra un atto di protervia nei confronti degli dèi che ci mandano il brutto e il buon tempo, è un argomento serio di discussione. Eleonora, finalmente una donna, le donne questa mattina si sono astenute, ma vorrei che dessero il loro contributo, perché è importante sentire anche il loro punto di vista. Eleonora. Sì, buongiorno. Ecco, il mio punto di vista è... Da che parte sta? Una lancia a favore di uno e dell'altro. Io sono una persona che ama assolutamente il freddo. Infatti ho sbagliato quella volta che sono nata qua. Per dove è nata? In Veneto, a Treviso, avrei dovuto nascere altrove, in Norvegia. Treviso non è che d'inverno proprio ci sia il solicello. No, infatti, però il problema adesso è il caldo. Allora io dico, se si utilizza il sistema, la tecnologia moderna... Ma lei da che parte sta, Eleonora? Non me l'ha detto. Criofoba o criofila? Criofoba. Lei non vuole condizionatore? Scusi, criofila. Volevo spezzare una lancia. Anche lo vuole o no? Lo vuole o no? Questo è il punto. Io lo voglio. Lo vuole, benissimo. Sì, e chi è che non glielo dà? Ma quello che vorrei dire è che tante volte si utilizza chi le impedisce, Eleonora, di accendere il condizionatore o di installare? Allora, mio marito no, grazie a Dio, abbiamo condiviso una situazione molto favorevole, deumidifichiamo, sì. Ed era questo che volevo sì, dire. Sì, lo so, tutti i saggi lo dicono. Vuole un sacco di tempo. È differente. Bisogna leggere il manuale, è una cosa complicatissima. No, ma assolutamente leggere il manuale, basta mettere dry anziché aria fredda. Ma quale disegnino c'è sul telecomando per demotificare? Ma santo Dio, è una cosa assolutamente. La gocciolina c'è, quella gocciolina lì. È scritto dry, nel mio è scritto dry. Quindi... Il mio è stato bloccato sui 18, poi non c'è a tutt'aria. Cioè, poi si va su mod menu sì. E si utilizza poi la temperatura che si ritiene più favorevole. Sul mio c'è anche un alberello con la luna, è quello per mandarlo di notte. Non so cosa vuol dire. Anche ma... sul mio poi c'è la programmazione, ma io non la utilizzo, faccio tutto manuale. Lo so. Però bisogna anche capire che chi al contrario non ama il freddo non può stare a congelarsi, perché... Allora Eleonora, io devo lasciare la linea alle informazioni della borsa, ci fermiamo un istante, però spero di poter continuare delle voci a favore, delle voci contrarie all'uso eccessivo e piacevolissimo del condizionatore. Melog, la realtà condivisa. Il criofobo, al contrario, è fondamentalmente un salutista convinto. Spesso soffre di una lieve ipocondria, ma sempre al di sotto della temperatura per lui ideale. È raggelato anche solo dalla visione di uno split spento. Entra in stati d'ansia improvvisi se avverte escursioni termiche, anche di pochi gradi, tra esterno e interno. Per prevalere, usa una tattica di aggressione graduale, con creativi attacchi psicologici. Soprattutto negli ambienti di lavoro, inizia a coprirsi con golf, giacche, foulard, persino sacchetti della spesa, quando proprio vuol far scattare i sensi di colpa nei colleghi che abbracciano il culto del condizionatore. I criofobi, per la successiva fase delle ostilità, prevedono la seguente escalation. 1. Apertura di una finestra, o finestrino se si è in fase di mobilità. 2. Colpi di tosse, con espettorazione acusticamente rilevabile, anche a distanza notevole. 3. Lamentela sommessa, protesta circostanziata, attacco di ira con urla e sbattimento d'oggetti. Stiamo parlando della strenua guerra che si svolge ogni anno tra criofili e criofobi. Quello che state sentendo è l'estratto di un'inchiesta che ha fatto La Stampa, quotidiano torinese, domenica, proprio dedicata a questa difficoltà di conciliare le due esigenze, entrambe a volte folli, entrambe a volte immotivate, ma che rispondono a una necessità individuale di benessere. Se qualcuno ha una percezione diversa dalla persona con cui condivide la vita, un ambiente, un posto di lavoro, un viaggio in auto, in treno, in aereo, è chiaro che si apre un conflitto. La percezione del clima è soggettiva e mutevole, non tutti la sentiamo alla stessa maniera, delle persone hanno proprio benessere nel sentire molto freddo attorno, lo vedo anche dai messaggi che mi arrivano. Dice: io ho l'aria condizionata da 10 anni, nessun problema, il trucco è quello di tenere la temperatura a 26-27 gradi, lo dica per favore Maurizio. Lo dico, certo, però un criofilo a 27 gradi comincia a avere le palpitazioni. Un'altra persona mi dice che la sua scrivania sotto il bocchettone dell'aria condizionata in ufficio. Il funzionario, alla richiesta di abbassare, di spegnerla, dice: dobbiamo tenere il passo, si metta la sciarpa e i guantini. Triste, molte volte dicono: mettiti il cappotto. Lo so, sono criofilo responsabile, mi dice Giuseppe da Monselice. Non sopporto quelli che sono preoccupati a far montare i condizionatori e poi vanno fieri a raccontare che lo accendono 2 o 3 giorni all'anno e per di più mezz'ora, tanto rimane fresco fino al mattino. Questa è un'altra tesi. Beh, diamo una rinfrescata. Si apre una mezz'oretta, poi si chiude tutto e si boccheggia. No, il condizionatore si accende il primo giorno di caldo e si spegne il primo giorno di tempesta settembrina. E resta sempre acceso e la temperatura base. Ma ammetto il mio limite, è come se fossi un alcolista anonimo che ammette il proprio vizio, per me 18 gradi sono un'accettabile temperatura per poter sopravvivere e pensare. Nicoletta. Buongiorno dottor Nicoletti, senta, io sono una criofila. Quindi mi capisce lei? Io in modo assoluto, faccio oltretutto il medico e medico del lavoro, quindi si immagini che cosa ho visto nella mia vita. Cosa mi sono sentita dire di tutto e di più. Mi dia qualche episodio per supportare la nostra causa. Giusto ieri, facendo un sopralluogo, a un certo punto in una stanza un pochino affollate, si diceva: perché tenete le finestre aperte? Scusi, io posso ieri riabbassare un attimo il condizionatore? Era entrata qui la collega per leggere le notizie della borsa, per discrezione l'avevo riportata a una temperatura per le accettabili 19 gradi, la sto riportando ai fantastici 16 che mi permettono di parlare. 16. Questa signora mi rispose: perché mi arriva l'aria nel collo. Dico: ma da dove arriva quest'aria? E nell'altra stanza salta una parete di 1,80 m e l'aria fa un salto e mi arriva sul collo. A fronte di affermazioni di questo tipo, cioè la curvatura dell'aria sarebbe sì, la curvatura dell'aria. Il problema è che, come giustamente diceva quello, le didascalie che facevate andare prima relativamente alle caratteristiche, è vero, ci sono tratti ipocondriaci abbastanza rilevanti. Ma con lei che è medico me lo può dire che il criofobo è un ipocondriaco. Tendenzialmente è una persona che poi apre le finestre perché ritiene che l'aria esterna sia più pulita di quella interna. Ma basta pulire i filtri, quello. Sì, certo. C'è uno spray bellissimo. Soprattutto alle 14:30 a Milano, quando sbattono 33-34 gradi fetidi, non è proprio il caso. Ecco, io sono arrivata a dire a una signora che mi diceva: che nel 2003, lei lo ricorda il 2003? Sì, fu l'anno in cui tutti comprarono i condizionatori, i ventilatori, i parvenu, e quindi era un casino. Una signora mi disse: ma che bello, ha visto dottoressa, fa caldo. E io gli risposi raggelandola: le civiltà si sono sviluppate a climi miti, non a climi insopportabili. Ma lei dottoressa la chiamano Capitan Findus, è vero? Sì, Capitan Findus mi chiamano. Gli amici che salgono in macchina mi chiamano Capitan Findus. Ma lei ha una vita relazionale, riesce comunque a trovare persone con la sua attitudine? Sì, o quantomeno si adattano. No, perché anche una soluzione è l'alcova diversamente condizionata, cioè metà ghiacciata, metà bollente, ognuno sta dalla parte che vuole. Sì, esatto. Senta, lei che è medico e quindi ci conforta con il beneficio della scienza e della coscienza, qual è la temperatura, diciamo, media migliore per l'essere umano? Da 18 a 22. Ecco, da 18 a 22, poi si tratta di vedere se stai in casa a leggere d'inverno, d'inverno d'estate con i condizionatori e ci sono 17 gradi, rischi di a un certo punto di sentire, stai fermo quindi non ti muovi, rischi a un certo punto di sentire un pochino freddo. Sì, uno si mette una felpa, una coperta. Certo, io parlo di soggetti, di persone che seguono le stagioni, così come trovo cretino. Senta, perché le donne hanno sempre caldo? A un certo punto diventano tutte rosse. No, Vabbè, no, attenzione, le donne al caldo se sono poverine, gli capita l'effetto contrario quando vanno in menopausa, per cui improvvisamente hanno delle terrificanti caldane, le cosiddette caldane o crisi vasodilatative, per cui diventano tutte rosse, sudano come, non posso definire, malamente, e quindi si sentono poco. Allora resti in ascolto, dottore, le diamo un attimo qualche ragguaglio di tipo scientifico, così lei ci può confortare, visto che abbiamo la fortuna di averla con noi. Le due categorie hanno una statistica suddivisione attraverso attitudini di genere. Le donne sono quelle che tendono a soffrire maggiormente il freddo in ambienti con aria condizionata. Questo almeno quello che sostiene Alan Edge, professore di ergonomia alla Cornell University. Essenzialmente perché gli uomini, soprattutto nei posti di lavoro, sono più coperti. Se non bastasse, le criofobe hanno in media il 66% in meno di massa muscolare rispetto a un uomo. I muscoli, è risaputo, tengono caldo. Questo luminare di ergonomia ci illumina sulla differenza di struttura fisica, dottoressa Nicoletta. Confermo. Certo. Allora, le dico questa cosa, io da piccina... Il muscolo tiene caldo, si sa. Facevo molto sport, ero un agonista, per cui ho sempre sofferto pesantemente il caldo, proprio perché avendo più masse muscolari preferivo e prediligevo il freddo. È vero anche che negli uffici, mentre i maschi usano giacca, cravatta, camicia, che va a coprire coperti. Il collo, le donne sovente, anzi per consuetudine... Sono notevolmente più smutandate, soprattutto d'estate, chiaro. Soprattutto d'estate, per cui è ovvio, se usassero... Nel senso vestite leggere, è un termine gergale, non è offensivo... No, per dire sono più leggere, più fresche. Riandavo indietro, stavo pensando alle donne in crinolina del 700. Anche queste andavano in giro col collo di fuori. È ovvio che poi lo senti di più. Quello che succedeva sotto non vogliamo nemmeno pensarlo, perché con quelle cose lì. Vabbè. Fermiamoci un attimo, Beppe. Sì, ciao Gianluca. Andiamo. Pronto? Sì, sto ascoltando. Sì, tassista di Milano. Quindi prima che vada avanti, una domanda. Perché molti suoi colleghi tengono i finestrini aperti e dicono ho l'aria rotta? Si consuma meno benzina? Questo è uno dei grandi misteri che ancora dopo 13 anni non mi sono riuscito a chiarire, sinceramente. Moltissimo. Io penso che siano semplicemente criofobi. Ma non mi hanno detto perché risparmiano benzina così. Può essere, però cioè, risparmiano benzina, ma la spendono per idratarsi di acqua minerale. Perché vanno alle fontanelle, le fontanelle comunali, quindi non spendono. Sì, proprio un'immagine. Si rinfresca. No, è una cosa che non ho mai capito, sinceramente. Poi comunque sono solo alcuni, perché io vedo dei colleghi che come me amano, che quindi fanno andare anche quando io quando sono fermo mantengo sempre a 20 gradi, non spingo mai. Minimo, certo. In modo che non del consumo meno, perché la macchina è già fredda, quindi cioè l'abitacolo è già rinfrescato, non ho bisogno. Poi, di Poi Luigi, diciamo la verità, un'automobile d'estate in cui entrano e escono persone, se toglie l'aria condizionata, viene su con la puzzettina di piede di moquette, che non è proprio bello. No, è tremendo. Infatti io ho appena combattuto una battaglia che sono riuscito a vincere. Io di solito poi mi impunto perché cioè, voglio far capire alle persone che comunque è cosa buona e giusta l'aria condizionata. Cioè, poco fa mi sono salite delle persone in tre, quello che si siede davanti immediatamente ha chiuso tutti i bocchettoni senza neanche dire buongiorno, pronti via. È un criofobo purtroppo. Io ho fatto notare, ho detto, guardi, scusi che... Cioè guarda che fa un caldo africano, fuori sì, ma noi veniamo dall'Africa, mi ha detto. Vabbè, veniamo da là. Allora ho lasciato sapientemente aperto il bocchettone, solo il mio, in modo che io mi rifrigeravo. E quando poi sono usciti? Man mano che andavamo alzavo la temperatura. Cioè man mano che ci avvicinavo alla meta, mezzo grado alla volta, ho iniziato in modo che quasi a destinazione l'abitacolo era invivibile. E a quel punto l'ho spento completamente e a quel punto ha ceduto, proprio quello che l'ha chiuso, ha aperto un po' il finestrino. E quello dietro ha detto, però mettiamo un po' di aria condizionata. L'ha presa per l'aggiustamento. Io raggiante ho detto, va bene, ma se il signore apre i bocchettoni io la metto volentieri. Vede, e quindi è stata proprio una vittoria. L'ha castigati, come è giusto che sia. Sì, lentamente, un mezzo grado alla volta. Pian piano, la cotti a fuoco lento e hanno capito e hanno cambiato. Melog. La realtà condivisa. Lo scienziato sostiene che la percezione del freddo aumenta nella donna con gli anni, passando da un benessere medio a 21 gradi fino a 40 anni, che sale a 24 con l'aumento dell'età, Diffondendo il dato, si potrebbe vigliaccamente ottenere una maggiore tolleranza da parte della criofoba. La poverina batterebbe i denti dal freddo, pur di non far intendere di essere più anziana di quanto Millanti. Certo, estremi mali, estremi rimedi, è una guerra senza quartiere, guerra psicologica. Si usano le armi di sterminio di massa delle criofobe e si dice hai freddo? Ma allora guarda, vuol dire che è più di 40 anni e stai avendo una percezione distorta del freddo. Allora tutte stanno lì, battono i denti e lasciano quei fantastici 16 gradi che ci permettono di sopravvivere. Nicoletta, cosa ne pensa? Buongiorno, io sono una psicoterapeuta, ho uno studio dove lavoro privatamente. Condizionato? Sì, anche se io tendo a usarlo poco, però con i pazienti naturalmente c'è chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, dottoressa è troppo freddo, dottoressa. Ma li stende anche sul lettino? Qualcuno sì, gli dico si vuole distendere, magari sta anche meglio. E li condiziona quando sono stesi oppure temperatura ambiente? Naturalmente. Temperatura ambiente, sì. Però io ho trovato una soluzione, sposto i mobili. Perché quindi ho una disposizione dei mobili d'inverno, una d'estate, poi una parete tutta a vetri, quindi si figura adesso è la fine. E allora io diventa una lama di ghiaccio quella. Quando... Di ghiaccio d'inverno e di fuoco d'estate, però risolvo che ogni volta sposto divano, scrivania, poltrona dove sono seduta io e quindi accontento un po' tutti in qualche modo. Ecco, visto che lei è psicoterapeuta, mi dice qualcosa in più rispetto all'ipocondria legata al controllo climatico? Anche da parte nostra che vorremmo tutto ghiacciato, abbiamo paura, che ne so, vogliamo prepararci al post mortem, non lo so, qual è il motivo per cui io amo i 16 gradi e altre persone soffocano appena vedono in mano un telecomando con uno split spento? Ma forse è un po' il bisogno di voler controllare anche il clima, qualcosa certo, che è più grande di noi, per cui c'è un bisogno di voler dominare tutto e quindi decido io anche la temperatura. Un senso di onnipotenza. Sì, che però funziona, Forse è l'unico. quindi ci aiuta, ci aumenta l'autostima abbassare sì? Il condizionatore. Questo, sì, lo dica ai criofobi. Decido io in che temperatura voglio stare. Lo dica al criofobo, si lascia condizionare da una fattispecie così arcaica come il cambio delle stagioni. Siamo certo, noi a controllarlo. Grazie certo, Nicoletta. Ascolti, Nicoletti, sì, eccolo. Volevo solo dirle che in questo periodo mi sta facendo molta compagnia il suo libro e la volevo ringraziare. Sì, adesso poi non vada oltre, sennò pensa che ci siamo messi d'accordo. Mi fa piacere, vorrei farle anch'io molta compagnia. Mauro. Buongiorno. Sì. Io è da più di 20 anni che come attività noi controlliamo le condizioni termigrometriche dei locali confinati. Oh, no? Finalmente, ci dia qualche termine tecnico. Per cui sostanzialmente noi abbiamo iniziato a montare proprio il classico split quando il mercato italiano non sapeva neanche cosa fosse, dovevamo spiegare ai clienti i dettagli. Erano periodi preistorici, arcaici, incivili. Esatto, a distanza ormai di decine di migliaia di impianti posso dire che in Italia manca una cultura d'utilizzo. Non lo so. Per cui se d'inverno tutti sanno che portano la rotellina del termostato a 20 gradi, d'estate uno si dice che temperatura devi portare d'estate per stare bene? 16. Lì si apre veramente uno spread enorme, c'è chi dice 16, c'è chi 20, c'è chi... Secondo lei qual è invece? No, diciamo che una temperatura ottimale non c'è, secondo me la cosa migliore sarebbe da avere un termometro a colonnina di quelli classici in casa. Perché io ce l'ho quello di frate Indovino, ad esempio. Esatto. Se fuori noi abbiamo 35 c'è il frate gradi, con la colonnina che si... La variabile è la temperatura interna delle nostre case. Una casa che è molto isolata potrebbe essere già fresca naturalmente quasi. E, supponendo che fuori ci sono 30 gradi, magari in casa ne avremmo 26, che è un minimo di isolamento. Quindi un 4 gradi di differenza fra esterno e interno. Io direi 2 gradi in meno della temperatura della colonnina. Ah, ho capito. Posta sì, all'interno della casa. Allora uno mette una colonnina, vede e abbassa di 2 gradi. Se la colonnina è 18, porta 16. Ecco, ma non cosa è 18. Vabbè, per 18 dire, è un esempio limite. Un esempio limite. La colonnina sarà 22 e uno la porta a 20, ecco così, più o meno. Ecco, mediamente comunque le temperature di comfort sono dai 25 ai 27 gradi, che per molti sembrano tantissimi. Poi un errore comune è che all'aumentare della temperatura esterna, uno... Abbassa. Vuole stare più freddo, sì, riduce il termostato interno e quindi aumenta il differenziale, no? Per cui più sale la temperatura fuori, più dovremo alzare la temperatura. Sì, anche perché poi lavora male la macchina che sta fuori, quella pompa sì, da dove è caldo, è chiaro, molto chiaro. Grazie, Antonio. Pronto, buongiorno. Sì, veloce. Io volevo dire, ho fatto una piccola indagine personale, ho notato che quelli che sono criofobi sono quelli che non hanno fatto le tonsille. Eh no, io non l'ho fatto le tonsille, mai fatto né tonsille né adenoidi, anche se andava di moda negli anni 50 e 60. Lei non le ha fatte? No. Quindi lei ama l'aria condizionata? Ah, da morire, certo. Ecco, come dico io. Ah, la sua conferma. Ah, chi è stato tolto delle tonsille e dell'adenoidi, come andava di moda negli anni 50 e 60, oggi teme l'aria condizionata. Esatto. Questa è la sua teoria. Questa è una teoria importante. O voi mutili di tonsille, pensate che a questa operazione che si faceva così, tanto per farle, come levarsi le caccole dal naso, levando adenoidi e tonsille, oggi avete il limite che non riuscite a sopportare la fantastica aria condizionata. È finito, ci sentiamo domani.